quanto sembra lontana. Ma è sul pavimento, cioè siamo al piano terra, siamo al secondo piano. Ok, quindi è proprio... Ok. Quindi vede questa persona, cioè questa cosa fuori dalla finestra. E non c'è nessuno, cioè Adone non è in camera al momento, ok. No, ci sono... No, stai cagando. La luce in camera è accesa. Naya prova a vedere se capta della magia venire da quella direzione. Naya non dice niente. Naya segue l'ordine. Mm-hmm. Naya si sveglia un attimo. Cioè, fino a quel momento era specie di trance per tutta la situazione assurda e surreale. Che porco, cagolotti. Quindi vede Maria in faccia, giusto? E Naya dice: mi dispiace, non volevo che nulla di tutto ciò succedesse. Naya è assolutamente scioccata. Se prima aveva un'espressione spaventato, comunque, cioè intimorito, adesso è terrorizzato, ma non per la situazione in cui si trova lui, ma per quello che ha appena visto. Non ha colori in faccia, non riesce a sbattere gli occhi e ha il viso ricoperto dal terrore e continua a fissare il sigillo e sì, e balbetta sussurrando proprio: cosa hai fatto? Perché? Naya balbetta. Come? Naya le urla di fermarsi. Naya continua a chiedere di fermarsi, le chiede perché sta facendo tutto questo. Serve per fare cosa? Convincermi di cosa? Perché il sigillo? Quando... Come fai a saperlo? Naya dice che non sta capendo, non sa di cosa stia parlando e le chiede di per favore smetterla, che non capisce perché stia facendo, cioè le continua a dire non capisco perché, non doveva, non serviva, smettila, non farlo. Naya dice, fermati, farò tutto quello che vuoi. Naya chiede quale contratto? E Naya chiede. Naya. Sono diventata quello che volevo dire. Cazzo. Naya, che cazzo è che chiedevo? Dammi un secondo, me lo sono dimenticata. Dio porco. Ah sì, mentre lei fa tutto questo, le chiede cosa vuole Braxarath, che vuole soltanto un passaggio per... qual è il suo scopo? E Naya le chiede, perché vo dovresti volere una cosa del genere? E Naya dice, se devo firmare il contratto lo devo fare prima io. È un mio errore da rimediare. Naya prende in mano il coltello. Poi Naya. Naya si taglia per la lunghezza di tutto il braccio. Naya. Naya può provare a tagliarsi la gola. Lo fa. Se Naya prova a disegnare il sigillo da qualche parte per... e può farlo su se stesso e metterci sul sangue, cioè riempirlo col suo sangue. Da padre del demonio. Naya non ha un'espressione, cioè non... le ha provate tutte, ha fatto tutto quello che poteva. La perdita di sangue gli sta facendo qualcosa, niente. L'adrenalina. Naya fissa Yan per un secondo. Guarda il basso, si sì, guarda Maria e dice mi dispiace e la tocca con la mano monca. siamo a cosa? Anzi, a cosa? Di cosa? Chi sei? Qual è il tuo nome? Naya si riesce a girarsi verso questa entità. Love it. E Naya è distrutto. Shell di quello che era, di ciò che era, e dice proprio sconfitto. Sì, e Naya fissa il libro e dice: cambierei molte cose. Come? Naya tocca il libro. Lo inizia a sfogliare. E Naya inizia a strappare le ultime pagine e buttarle nel fuoco. Cioè, le prende proprio, fa così. E le butta via. Sempre più in fretta.